Il bonus, un impegno in più. Sulla puntualità e sul comfort, la divisione passeggeri assume con i viaggiatori un impegno in più. In alcuni casi di ritardo e in caso di mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione dei treni Eurostar, Intercity ed Eurocity, la società rilascia al cliente un bonus da utilizzare entro 6 mesi, valido per l'acquisto di biglietti Trenitalia. Bonus per ritardo. Treni Eurostar Italia. In caso di ritardo in arrivo superiore a 25 minuti, viene rilasciato un bonus pari al 50% del prezzo del biglietto. Treni Intercity ed Eurocity per percorso nazionale. In caso di ritardo in arrivo superiore a 30 minuti, viene rilasciato un bonus pari al 30% del prezzo del biglietto e della prenotazione. Treni Intercity Notte ed Espressi. In caso di ritardo in arrivo superiore a 60 minuti, viene rilasciato un bonus pari al 30% del prezzo del biglietto e della prenotazione, esclusi i supplementi cuccetta e vagone letto ed altri servizi accessori. Bonus per mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione. Quando nella carrozza in cui si è preso posto l'impianto di climatizzazione non è funzionante e non risulta possibile l'assegnazione del posto in un'altra carrozza di classe pari o superiore, viene rilasciato un bonus pari al 50% dell'importo del biglietto, se si viaggia su treni Eurostar Italia, o al 30% dell'importo del biglietto se si viaggia su treni Intercity ed Eurocity per il percorso nazionale. Come richiedere il bonus? Per richiedere il bonus per il ritardo, il cliente deve inserire il biglietto convalidato e la prenotazione del posto o il biglietto emesso a bordo nell'apposita busta distribuita in stazione, va bene anche una busta semplice, indicando i propri dati personali, nome, cognome ed indirizzo. I viaggiatori Eurostar possono ritirare la busta per richiedere il bonus anche a bordo. La busta va riconsegnata presso la stazione di arrivo o inviata per posta sempre alla medesima stazione entro 30 giorni dalla data del viaggio. Il bonus viene rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di ritardo su Eurostar, il bonus viene rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta. Per richiedere il bonus per la mancata climatizzazione, le modalità e i termini sono uguali al caso di ritardo. Il biglietto deve però avere l'annotazione da parte del personale di bordo attestante il mancato funzionamento del sistema di climatizzazione. I bonus non sono cumulabili. Esclusione dal diritto al bonus. Il bonus non è accordato nei seguenti casi: cause di forza maggiore, scioperi, fino a 3 ore successive allo sciopero proclamato. Evento determinato da terzi con ripercussioni sulla circolazione. Occupazione dei binari da parte di estranei alla ferrovia. Incendi, calamità naturali, smottamenti, allagamenti, forti perturbazioni atmosferiche, nevicate, eccetera. Ordine dell'autorità pubblica, giudiziaria o di polizia. Ritardo imputabile a rete estera, relativamente ai treni Eurocity per il percorso nazionale. Il bonus non viene rilasciato ai possessori di diritto di ammissione, abbonamenti Intercity, carte di ammissione ai treni Intercity e ticket di ammissione ai treni Eurostar, biglietti particolari con prezzo complessivo non divisibile, carta Interrail, eccetera, nel caso di ritardo dei treni espressi. La divisione trasporto regionale. La divisione trasporto regionale di Trenitalia assicura i servizi di mobilità locale rapportandosi alla domanda espressa dalle diverse realtà territoriali attraverso i contratti di servizio regionali. Azioni e impegni per il 2003. Per soddisfare in maniera efficace le esigenze di mobilità presenti sul territorio, la Divisione Trasporto Regionale ha avviato un programma pluriennale di investimenti che riguarda tutti i fattori che incidono sui principali aspetti del servizio, realizzando consistenti interventi finalizzati a rinnovare il parco rotabili, a migliorare la pulizia e il decoro dei treni, nonché i servizi delle stazioni, gli impianti di manutenzione, i sistemi di bigliettazione e quelli di informazione. Il piano quadriennale 2002-2005 prevede un impegno finanziario di 2.090 milioni di euro, di cui 862 saranno utilizzati per l'acquisto di nuovo materiale rotabile e per l'ammodernamento di quello esistente, 146 per la sicurezza a bordo, vigilante, sistemi automatici di controllo della marcia, eccetera. 41 per il potenziamento delle officine. 83 per l'installazione dei monitor nelle stazioni e per la realizzazione di sistemi magnetici di bigliettazione che possano facilitare l'integrazione con altri vettori. Per il 2003 lo stanziamento è di 546 milioni di euro, che saranno impiegati soprattutto per realizzare efficaci sistemi di informazione alla clientela e per proseguire nell'opera di rinnovamento del parco rotabili. Qualità certificata. Contemporaneamente a questi interventi, la Divisione Trasporto Regionale sta sviluppando un sistema di gestione per la qualità che permei ogni livello dell'organizzazione, ponendosi come un fondamentale strumento per garantire la soddisfazione del cliente e al tempo stesso la razionalizzazione della gestione dei processi aziendali. A tale scopo, la Divisione Trasporto Regionale ha avviato un piano che porterà, entro il 2003, all'adozione in ogni direzione regionale di sistemi di gestione per la qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001-2000. Fattori, indicatori e standard della qualità del servizio. Obiettivi 2003 per la puntualità. Treni divisione trasporto regionale con ritardo di arrivo entro 5 minuti, 88%. Treni divisione trasporto regionale con ritardo di arrivo entro 15 minuti, 96%. Treni interregionali con ritardo di arrivo entro 15 minuti, 91%. Per tutti i casi sono da escludere le seguenti cause di ritardo: derivanti da forza maggiore, non dipendenti dal gestore del servizio e dal gestore dell'infrastruttura, derivanti da cantieri di manutenzione e o sviluppo della rete. Il ritardo è misurato nella stazione di destinazione finale. La puntualità dipende in buona parte dalla capacità, dallo stato di manutenzione e dal livello tecnologico dell'infrastruttura. Dal canto suo, per eliminare i ritardi dovuti ad anomalie nel funzionamento dei treni, la Divisione Trasporto Regionale sta procedendo al progressivo rinnovo dei mezzi, all'introduzione di nuove tecniche di manutenzione e all'intensificazione degli interventi di prevenzione. Il costante monitoraggio dei treni in movimento all'interno di ciascuna regione contribuisce a ridurre al minimo i ritardi e consente di controllare e gestire al meglio ogni eventuale problema di circolazione. Obiettivi 2003 per il livello di servizio offerta commerciale. Velocità commerciale treni regionali, chilometri orari, 54. Velocità commerciale treni diretti, chilometri orari, 67. Velocità commerciale treni interregionali, chilometri orari, 73,6. Per migliorare il livello dell'offerta, stiamo procedendo all'ammodernamento dei treni con vetture e mezzi di trazione specificatamente progettati per le esigenze del trasporto locale. Attualmente circolano già 88 treni ad alta frequentazione di nuova costruzione ed altri 11, già ordinati, saranno attivi entro il 2003. Un nuovo tipo di locomotiva, la E464, studiata proprio per i collegamenti regionali e interregionali, è già operativa con 138 esemplari, mentre altri 42 stanno progressivamente entrando in funzione. Obiettivi 2003 per la pulizia. Controllo affidabilità imprese di pulizia. Controlli effettuati, controlli programmati, 95%. Pulizia esterna treni, carrozze circolanti senza graffiti, 99%. Più qualità nella pulizia a bordo treno grazie a un maggiore controllo sulle imprese a cui il servizio è affidato. Rimozione immediata, grazie a speciali pellicole applicate sulle carrozze, di scritte e graffiti esterni con il recupero della livrea nei colori bianco, azzurro e verde. Eliminazione del degrado nelle piccole stazioni dove non è presente il nostro personale, molte delle quali sono state completamente recuperate con il coinvolgimento di enti e associazioni cui vengono ceduti in comodato gratuito o in affitto i locali con l'impegno ad assicurare servizi essenziali come la pulizia, l'apertura e chiusura delle sale d'attesa, la manutenzione, la gestione degli immobili. Obiettivi 2003 per il comfort del viaggio. Comfort scompartimenti. Carrozze climatizzate, 40%, 2.800. Carrozze con sedili rinnovati, 72%, 5.000. Accessibilità al treno, carrozze ad accesso facilitato, 22%, 1.500. Accessibilità, ambienti comodi e capaci, funzionalità degli interni, spazi accoglienti e gradevoli, aria condizionata. Sono questi i principali requisiti delle vetture con cui la direzione regionale sta ammodernando i treni in circolazione. Alcuni dei nuovi treni sono progettati tenendo conto dei suggerimenti delle associazioni dei clienti e dei disabili. Tutti i nuovi mezzi che entreranno in funzione saranno dotati di condizionatori d'aria, così come le vetture oggetto di restyling. Obiettivi 2003 per il livello di servizio rete di vendita. Stazioni con possibilità di acquisto biglietto, 1.120. Il dato comprende le biglietterie delle divisioni trasporto regionale e passeggeri di Trenitalia, le stazioni in cui la vendita è curata dal capostazione e le stazioni in presenziate dotate di biglietterie automatiche. Emettitrici automatiche, 850. Punti vendita esterni, 4.000. Per semplificare l'acquisto dei biglietti, oltre alle 359 biglietterie gestite dalla Divisione Trasporto Regionale e alle 128 biglietterie gestite dalla Divisione Passeggeri, a cui si aggiungono le oltre 100 località in cui è possibile acquistare dal capostazione biglietti per percorsi fino a 200 km, i viaggiatori possono contare su 658 biglietterie automatiche, che sono state poste soprattutto nelle stazioni dove non è presente il personale Trenitalia in locali videocontrollati, a tutto vantaggio di una maggiore sicurezza. Queste apparecchiature hanno ottenuto l'apprezzamento delle associazioni nazionali dei consumatori, alle quali sono state presentate in anteprima. La rete di vendita interna è integrata da oltre 3.000 punti vendita gestiti da esercizi privati, bar, tabaccai, edicole. Abbonamenti mensili per il trasporto regionale anche via internet. Dal luglio 2000 il sito www.abbonamenti.fs-on-line.it offre ai viaggiatori del trasporto regionale una grande comodità, consentendo di acquistare via internet gli abbonamenti mensili di prima e seconda classe o di cambio classe per i treni espressi, interregionali, diretti, regionali, fino a una distanza massima di 250 km. Obiettivi 2003 per i servizi aggiuntivi. Servizi di biglietteria. Biglietterie con almeno una vendita diversificata, 98%. Servizi di bordo. Treni con trasporto bici, 80%. Il trasporto bici è ammesso su tutti i treni della divisione trasporto regionale compatibilmente con l'affluenza dei viaggiatori. Presso le 359 biglietterie che fanno capo alla divisione trasporto regionale si possono acquistare anche orari ferroviari, biglietti di altri vettori, tagliandi per i punti di sosta riservati agli abbonati ferroviari e ai titolari di carta Amico Treno, carte e ricariche telefoniche. L'obiettivo è quello di offrire in tutte una vendita diversificata, trasformandole in autentici centri di servizio e di interscambio a disposizione della clientela. E ciò anche per favorire l'intermodalità del trasporto, come dimostrano oltre 60 integrazioni tariffarie operative in ambito regionale, le 120 aree di sosta messe a disposizione della clientela e gli oltre 5.600 treni su cui è possibile effettuare il trasporto di bici al seguito. Particolarmente apprezzato dai cicloamatori, il servizio consente di abbinare i due mezzi di trasporto meno inquinanti. Nel limite dei posti disponibili, il trasporto delle biciclette viene effettuato sui treni contrassegnati con apposito pittogramma. Obiettivi 2003 per le informazioni. Informazioni a terra. Stazioni con elenco punti vendita esterni, 99%. Stazioni in presenziate dotate di monitor, 80%. Informazioni a bordo. Carrozze con impianti di diffusione sonora visiva, 33%. 2300. Treni con impianti automatici per diffusione e informazioni in tempo reale, 25%, 1700. Informazioni alla clientela. Tasso di evasione telefonate, numero verde, carta Amico Treno, 90%. Oltre ai tradizionali strumenti informativi come fascicoli orari, avvisi, quadri orario e sportelli nelle stazioni, la divisione trasporto regionale utilizza anche tutti i canali di comunicazione, servizi telefonici, internet, che consentono al pubblico di ricevere ogni informazione di cui ha bisogno. In stazione i viaggiatori ricevono notizie sulla marcia dei treni e su eventuali problemi di circolazione da appositi impianti di diffusione sonora e dai nuovi monitor informativi installati soprattutto nelle stazioni dove non è presente il personale Trenitalia. A bordo, notizie tempestive ed esaurienti su variazioni e ritardi che possono verificarsi durante la marcia dei convogli sono fornite dal personale e, nei treni in cui sono presenti, dagli impianti di diffusione. Il programma di ammodernamento dei mezzi prevede che tutte le vetture di nuova costruzione o ristrutturate saranno attrezzate con questi dispositivi. Informazioni utili. Il cambio del biglietto. Se non intendete più effettuare il viaggio così come previsto nel biglietto da voi già acquistato, potete richiederne il cambio presso qualsiasi biglietteria e agenzia di viaggio abilitata, a condizione che il nuovo biglietto sia di importo pari o superiore. Il cambio può essere richiesto nel periodo di validità per biglietti a data aperta, entro i termini previsti dal tipo di servizio utilizzato per quelli con contemporanea assegnazione del posto. Eurostar Italia. Potete richiedere il cambio del biglietto prenotazione un numero illimitato di volte e senza pagamento di alcun sovrapprezzo se effettuate la richiesta prima della partenza del treno prenotato. Dopo la partenza del treno prenotato, potete effettuare una sola volta entro le 24 ore soltanto il cambio della prenotazione pagando un sovrapprezzo di 3 euro. Intercity. Entro i 2 mesi dall'acquisto potete cambiare il vostro biglietto con un altro di importo pari o superiore. La prenotazione non si può cambiare. Intercity Notte. Entro i 2 mesi dall'acquisto potete cambiare il vostro biglietto con un altro di importo pari o superiore. La prenotazione del posto, i supplementi cuccetta e vagone letto non si possono cambiare. Espresso, posto a sedere. Entro i 2 mesi dall'acquisto potete cambiare il vostro biglietto con un altro di importo pari o superiore. Espresso, cuccette e vagone letto. Potete modificare la data o il treno di partenza fino alle ore 24 del giorno precedente la partenza del treno prenotato. Trasporto bagagli, animali e bici. Trasporto bagagli. Potete portare con voi gratuitamente bagagli anche ingombranti, purché non diano fastidio agli altri viaggiatori. I bagagli non devono contenere cose pericolose o nocive e restano sempre sotto la vostra custodia. In caso di furto si può ottenere un risarcimento grazie a una polizza assicurativa gratuita. Per maggiori informazioni sui treni coperti dalla polizza, nonché sulle modalità di richiesta del risarcimento, potete rivolgervi alle biglietterie e alle agenzie di viaggio. Trasporto animali. Potete viaggiare portando con voi un cane o un gatto o un altro piccolo animale domestico. Gli animali ammessi e le specifiche modalità con cui devono essere trasportati sono riportate sulla guida del viaggiatore. Bici al seguito. Nei limiti dei posti disponibili potete portare con voi la bicicletta sui treni regionali, diretti, interregionali e su alcuni Intercity, Eurocity ed Euronight, tutti contrassegnati in orario dall'apposito pittogramma. Il trasporto avviene pagando un piccolo supplemento che non è rimborsabile. In più, su tutti i treni, ad eccezione degli Eurostar Italia, dei vagoni letto e delle cuccette, potete portare la vostra bicicletta gratuitamente se parzialmente smontata nelle sacche porta bici. I rimborsi. I rimborsi e i bonus per rinuncia al viaggio variano in base al tipo di biglietto e ai tempi in cui si effettua la richiesta. Richieste di rimborso per viaggiatori singoli. Tipo di biglietto. Biglietto per treni espressi, intercity, intercity notte, regionali, diretti, interregionali. Trattenuta 20%. Limiti e tempi. Biglietto non convalidato entro i 2 mesi dall'emissione. Biglietto convalidato entro 30 minuti dalla convalida esclusivamente presso la stazione di partenza. Bonus. Pari all'intero importo del biglietto. Non si rimborsa e non si rilascia il bonus se la cifra da corrispondere al netto delle trattenute è pari o inferiore a 8 euro. Tipo di biglietto. Biglietto per treno Eurostar Italia. Trattenuta 20%. Limiti e tempi. Prima della partenza del treno. Bonus. Pari all'intero importo del biglietto. Tipo di biglietto. Biglietto per treno Eurostar Italia. Trattenuta 50%. Limiti e tempi. Dopo la partenza del treno ed entro le 24 ore successive solo presso la stazione di emissione e di partenza o l'agenzia emittente. Bonus. Non è previsto. Tipo di biglietto. Biglietto per treno Eurostar Italia. Trattenuta 100%. Limiti e tempi. Dopo le 24 ore dalla partenza del treno. Bonus. Non è previsto. Tipo di biglietto. Supplemento vagone letto e supplemento cuccette. Trattenuta 20%. Limiti e tempi. Fino alle ore 24 del giorno antecedente la partenza del treno. Bonus. Pari all'intero importo del biglietto. Tipo di biglietto. Supplemento vagone letto e supplemento cuccette. Trattenuta 50%. Limiti e tempi. Da 24 ore prima fino alla partenza del treno. Bonus. Non è previsto. Tipo di biglietto. Supplemento vagone letto e supplemento cuccette. Trattenuta 100%. Limiti e tempi. Dopo la partenza del treno. Bonus. Non è previsto. Tipo di biglietto. Auto al seguito. Trattenuta 20%. Limiti e tempi. Fino alle ore 24 del quinto giorno precedente la partenza. Bonus. Pari all'intero importo del biglietto. Tipo di biglietto. Auto al seguito. Trattenuta 50%. Limiti e tempi. Dal quarto giorno precedente e fino alla partenza. Bonus. Non è previsto. Tipo di biglietto. Auto al seguito. Trattenuta 100%. Limiti e tempi. Dopo la partenza del treno. Bonus. Non è previsto. Richieste di rimborso per gruppi. Tipo di biglietto. Biglietto. Trattenuta 20%. Limiti e tempi. Fino a 15 giorni prima della partenza del treno per i treni espressi, Intercity, Intercity Notte ed Eurostar. Entro la validità del biglietto per i treni regionali, interregionali e diretti. Bonus. Pari all'intero importo del biglietto. Non si rimborsa e non si rilascia il bonus se la cifra da corrispondere al netto delle trattenute è pari o inferiore a 8 euro. Tipo di biglietto. Biglietto. Trattenuta. 100%. Limiti e tempi. Trascorsi i termini suddetti. Bonus. Non è previsto. Tipo di biglietto. Supplemento vagone letto e supplemento cuccette. Trattenuta 20%. Limiti e tempi. Fino a 15 giorni prima della partenza del treno. Bonus. Pari all'intero importo del biglietto. Tipo di biglietto. Supplemento vagone letto e supplemento cuccette. Trattenuta 100%. Limiti e tempi. Trascorsi i termini suddetti. Bonus. Non è previsto. Maggiori informazioni su cambio del biglietto, rimborsi, trasporto di bagagli, animali e bici sono riportate sulla Guida del viaggiatore, disponibile anche sul sito www.trenitalia.com. Offerte commerciali. Divisione passeggeri. La divisione passeggeri riserva a particolari segmenti di clientela le seguenti vantaggiose offerte. Carta verde e carta d'argento. Gli sconti di queste offerte non sono cumulabili con altre riduzioni e non riguardano il pagamento della prenotazione facoltativa e ogni altro servizio accessorio aggiunto, cuccette, vagone letto, ristorazione, eccetera. Dedicate rispettivamente a chi ha meno di 26 anni e chi ne ha più di 60. Entrambe le carte consentono di viaggiare su tutti i treni, sia in prima che in seconda classe, con il 15% di sconto sul prezzo del biglietto. Le carte d'argento permanenti consentono una riduzione sul prezzo del biglietto ordinario del 40% in prima e del 30% in seconda classe. Nominative e valide un anno, carta verde e carta d'argento sono in vendita al prezzo di 25,82 euro presso tutte le biglietterie e le agenzie di viaggio Trenitalia. Carta Club Eurostar. Gli sconti di queste offerte non sono cumulabili con altre riduzioni e non riguardano il pagamento della prenotazione facoltativa e ogni altro servizio accessorio aggiunto, cuccette, vagone letto, ristorazione, eccetera. Nominativa, valida un anno, dà diritto allo sconto del 15% sul prezzo dei biglietti di prima classe su tutti i treni e consente di accedere ai servizi esclusivi offerti dal circuito Club Eurostar. La carta costa 77,47 euro ed è in vendita presso i Club Eurostar, le biglietterie e le agenzie di viaggio Trenitalia. Offerta famiglie. Due adulti e un ragazzo di età inferiore a 12 anni che viaggiano insieme sullo stesso treno e nella stessa classe, con questa offerta, valida su tutti i treni sia in prima che in seconda classe, pagano solo i biglietti a prezzo intero per gli adulti e ottengono il viaggio gratuito per il giovane. Offerte comitive. Gli sconti di queste offerte non sono cumulabili con altre riduzioni. La prenotazione dei posti è sempre obbligatoria e costa 1,50 euro a persona. Non va pagata nei casi in cui l'assegnazione del posto è contestuale all'emissione del biglietto. Viaggi in Eurostar Italia, vagone letto e cuccette. Sono previsti dei periodi di sospensione dell'offerta. I biglietti sono rimborsabili fino a 15 giorni prima della partenza. Le comitive che viaggiano con i nostri treni su percorsi nazionali hanno diritto a riduzioni e biglietti omaggio. Gruppi da 6 a 50 persone, sconto del 20% per tutti i treni espressi, intercity ed eurocity sui percorsi nazionali e sconto del 10% sui treni Eurostar Italia, sui supplementi delle cuccette comfort e dei vagoni letto. L'offerta è valida sia per la prima che per la seconda classe. Gruppi di oltre 50 persone. Lo sconto è lo stesso dei gruppi inferiori, ma per prenotare bisogna rivolgersi ai centri comitive di Trenitalia presenti nelle principali stazioni. È consigliabile prenotare il più presto possibile e comunque non oltre 15 giorni prima della partenza del treno prescelto. Comitive scolastiche. Possono usufruire della gratuità del viaggio per un accompagnatore ogni 15 studenti, con un massimo di 5 biglietti gratuiti, compresi i viaggi in vagone letto o cuccette comfort. Programmi di fidelizzazione. Per incentivare e premiare l'utilizzo del treno da parte dei clienti, la divisione passeggeri ha messo a punto dei programmi di fidelizzazione. Intercity Card è dedicata ai clienti più fedeli. Consente di accumulare punti per ricevere viaggi premio e usufruire di speciali iniziative ideate appositamente per i titolari. Programma in treno, dedicato alle imprese e ai loro dipendenti, consente di ottenere sconti, agevolazioni e servizi esclusivi in vari settori. Offerte commerciali. Divisione Trasporto Regionale. Queste le offerte che la Divisione Trasporto Regionale riserva ai viaggiatori. Le singole iniziative delle direzioni regionali sono riportate sulle diverse edizioni regionali della Carta dei Servizi. Carta Amico Treno. Nominativa, valida un anno, costa 50 euro, 10 e 20 euro per i possessori di abbonamenti ferroviari o integrati annuali o mensili. E dà diritto a importanti agevolazioni, tra cui il 50% di sconto, anche per un accompagnatore, in prima e seconda classe sui treni verdi della divisione trasporto regionale e il 10% di sconto solo per il titolare e il venerdì e la domenica solo in prima classe sui treni espressi, intercity ed eurocity per percorsi nazionali. Per maggiori informazioni sulla carta e sui vantaggi riservati ai soci si può chiamare il numero verde di Carta Amico Treno 800 100 650. Abbonamenti mensili, individuali e nominativi, consentono un significativo risparmio a chi deve effettuare, con una certa frequenza, viaggi di percorrenza non superiore a 250 km, a condizione che non sia ad essi applicabile specifica tariffa regionale, metropolitana o integrata. Abbonamenti annuali sono rilasciati alle stesse condizioni previste per l'abbonamento mensile, ma garantiscono un risparmio ancora più consistente. Abbonamenti regionali consentono di risparmiare sui viaggi effettuati con treni classificati espressi, interregionali, diretti e regionali, la cui percorrenza sia compresa nei confini tariffari della regione. Anche Carta Club Eurostar, Carta d'Argento, Carta Verde, Carta Blu e le offerte famiglia e comitive danno diritto ad agevolazioni sui treni della divisione trasporto regionale. Relazioni con la clientela. La comunicazione con la clientela. La comunicazione con la clientela avviene attraverso la pubblicazione di riviste, opuscoli, guide, brochure e dépliant, l'affissione di manifesti, la diffusione di campagne pubblicitarie attraverso quotidiani e settimanali e tramite i principali canali televisivi e radiofonici. Lo sviluppo dei siti internet per una comunicazione sempre più diretta ed efficace. Attraverso lo sviluppo dei siti internet www.trenitalia.com, www.regionale.trenitalia.it e www.cargo.trenitalia.it, Trenitalia ha creato un ulteriore filo diretto con chi utilizza il treno. Tale canale dovrà essere ulteriormente potenziato in modo da fornire un maggior numero di notizie e suggerimenti utili a chi viaggia e da rispondere in maniera sempre più efficace all'esigenza di chi vuol far giungere all'azienda le proprie valutazioni sulla qualità del servizio erogato. La rivista Riflessi, distribuita sui treni Eurostar e nelle sale club Eurostar, Riflessi è la rivista di attualità e informazione culturale offerta ai passeggeri da Trenitalia. Buona compagna di viaggio, interessante e di piacevole lettura, la pubblicazione contiene anche nelle ultime pagine un'utile agenda Trenitalia con informazioni su novità e iniziative dell'azienda. L'agenda contiene anche le schede di presentazione dei treni che compongono la nostra flotta. La rivista Amico Treno, diffusa mensilmente in 40.000 copie e inviata gratuitamente ai circa 25.000 abbonati della carta Amico Treno, questa pubblicazione è una preziosa fonte di informazione e di aggiornamento per tutto quanto riguarda i servizi offerti dalla Divisione Trasporto Regionale. Ospita inoltre una rubrica di corrispondenza con i lettori, articoli sul sistema ferroviario internazionale e spazi di intrattenimento culturale. La rivista Fermerci. Fermerci è la rivista bimestrale di trasporto e logistica per mezzo della quale la divisione cargo informa i lettori sia sulla politica di indirizzo generale e sulle iniziative delle singole strutture di business, sia sull'evoluzione del mercato interno e internazionale e del sistema economico nel suo complesso. Fermerci è disponibile anche in inglese e in tedesco perché il mercato di riferimento è sempre più proteso all'esterno dei confini nazionali. La rivista può essere richiesta direttamente accedendo dal sito www.cargo.trenitalia.it. Relazioni con la clientela. Insieme ci si muove meglio. L'importanza del dialogo. Lo sforzo per creare la massima sintonia con il cliente passa anche attraverso il dialogo costante e costruttivo con la clientela stessa. A questo scopo sono attivi due canali di comunicazione. Il primo è rappresentato dalle diverse modalità offerte ai singoli clienti di entrare in contatto con l'impresa. Si tratta di un sistema che prevede molteplici canali, posta, email, fax, eccetera, messi a disposizione dalle diverse divisioni di Trenitalia per inviare agli uffici appositamente dedicati reclami, segnalazioni o suggerimenti. Il secondo è quello assicurato attraverso le forme di rappresentanza organizzata della clientela, le associazioni, con le quali il proficuo e consolidato rapporto avviene con incontri periodici, anche regionali e locali, sui diversi temi del servizio ferroviario. I vostri suggerimenti, una risorsa preziosa che ci aiuta a migliorare. Trenitalia ritiene fondamentale e decisamente costruttivo il confronto con i viaggiatori e le loro esigenze. Per questo abbiamo attivato tutti i canali di comunicazione che possono facilitare singoli ed associazioni nella formulazione di critiche, proposte e suggerimenti, organizzando specifiche strutture dedicate all'ascolto e al dialogo con il consumatore. I reclami, un punto di riferimento per indirizzare il nostro operato. Per Trenitalia il reclamo non è solo l'occasione per recuperare un cliente insoddisfatto, ma anche una risorsa preziosa da tenere sempre in considerazione per migliorare le proprie prestazioni. Per facilitare l'invio dei reclami e per sviluppare questo prezioso canale di comunicazione con i passeggeri, Trenitalia si impegna a informare efficacemente sulle modalità per reclamare, aumentare i punti di raccolta, sportelli, indirizzi di posta elettronica, eccetera, eliminare gli ostacoli, file, tempi di attesa al telefono, eccetera, mettere a disposizione moduli di semplice compilazione, ridurre i tempi di risposta e rispondere comunque a tutti entro un tempo medio di 30 giorni dall'arrivo della segnalazione. Non limitarsi a risposte formali, ma, quando possibile, far seguire interventi tesi a migliorare il servizio o a risolvere uno specifico problema individuale. Monitorare e analizzare le cause di insoddisfazione del cliente. Più controllo e più velocità nella soluzione dei problemi. I vantaggi della gestione informatizzata dei reclami. Per verificare in maniera più rapida ed efficace la qualità delle proprie prestazioni, Trenitalia ha attivato un sistema per la gestione informatizzata dei reclami, Customer Database, che permette di memorizzare, nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, tutte le segnalazioni inviate nelle diverse forme, fax, telefono, posta, email, eccetera. Controllare in tempo reale lo stato di avanzamento delle varie attività connesse all'evasione del reclamo. Individuare gli operatori responsabili della trattazione di ogni singolo reclamo. Monitorare i tempi di risposta. Introdurre una classificazione dei reclami in base ai fattori di qualità previsti nella Carta dei Servizi. Verificare cause di insoddisfazione ed elementi di criticità. Individuare le strutture cui sono imputabili i disservizi. Valutare l'efficacia delle diverse azioni messe in atto. Come inviare un reclamo? I reclami ci aiutano a migliorare, per questo invitiamo i clienti a segnalare ogni eventuale inefficienza o disservizio che dovessero riscontrare. Inviare un reclamo o un suggerimento utile a migliorare il servizio è facile. Basta seguire le seguenti indicazioni. Media e lunga percorrenza. O compilare l'apposito modulo distribuito a bordo dal personale addetto o in stazione presso gli uffici di assistenza alla clientela e riconsegnarlo presso gli stessi uffici. O compilare la scheda posta sul sito www.trenitalia.com, menu email, o scrivere direttamente agli uffici territoriali di assistenza alla clientela, i cui indirizzi sono riportati sull'edizione integrale della Carta dei Servizi. Mobilità locale. O compilare gli appositi moduli distribuiti in stazione, o scrivere direttamente agli uffici rapporti con i clienti delle 21 direzioni regionali provinciali, i cui indirizzi, anche email, sono disponibili sugli orari regionali sulle carte dei servizi, sia sulla edizione nazionale integrale che sulle regionali, e sul sito www.regionale.trenitalia.it. Oppure scrivere direttamente alla struttura centrale dei rapporti con i clienti interessata. Per la media lunga percorrenza, Trenitalia, divisione passeggeri, rapporti esterni, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma, fax 06 44 10 2879, oppure 06 44 10 2373, indirizzo email rapporticlienti.pax@trenitalia.it. Per il trasporto regionale, Trenitalia, divisione trasporto regionale, rapporti esterni, Piazza Sigmund Freud 1, 20 154 Milano, fax 02 63 71 79 87, indirizzo email rapporticlienti.dtr@trenitalia.it. La presente carta dei servizi è a cura di Trenitalia, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma, www.trenitalia.com.